Letture di Radio 24. Secondo un rapporto diffuso dall'Associazione Matrimonialisti, l'11% delle famiglie italiane vive in condizioni di indigenza e molti di questi nuovi poveri sono padri separati. In Italia avanza un esercito di nuovi poveri, che per la statistica non sarebbero tali, ma che di fatto vanno a mangiare alla mensa della Caritas. I padri separati. Sono 800.000 quelli in condizione di grave indigenza e di questi molti vanno a chiedere alla Chiesa una minestra calda. 90.000 a Roma, 50.000 a Milano. A fare luce su questo fenomeno è l'Associazione dei Matrimonialisti Italiani, presieduta dall'avvocato Gianettore Gassani, il quale ha diffuso questo allarme sociale a margine della presentazione del rapporto della Caritas e della Fondazione Zancan sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia. Che l'indigenza dilaghi in Italia è triste, ma è anche noto. Circa l'11% delle famiglie italiane non ce la fa a fare fronte alle esigenze elementari del vivere. Non solo. Le cose, rileva la Caritas, da un anno all'altro stanno andando peggio, con un aumento dei poveri del 3,7%. In totale sarebbero 8 milioni e 370 mila gli italiani che arrancano pesantemente e un terzo di questi sarebbe alle soglie della fame. Rispetto a questa situazione, poi, ci sono alcuni fattori aggravanti. L'essere donna e straniera, il vivere in una grande città, avere 3 figli o più, appartenere ad una famiglia monoreddito. Per contro, se vogliamo stabilire un termine di paragone, è noto e confermato sia dall'OCSE che dalla Banca d'Italia che esiste un altro 10% di famiglie italiane, quelle che da sole posseggono il 45% della ricchezza complessiva del paese. In questo quadro di forte disuguaglianza sociale e di marginalizzazione estrema dei poveri, è emerso il fenomeno dei separati come nuovi poveri, 800.000 per l'appunto, 80% uomini e 20% donne, ridotti a vivere come clochard. Tant'è, spiega l'avvocato Gassani, che la Caritas sta salvando dalla fame migliaia di persone del tutto insospettabili, che pur svolgendo attività lavorative di tutto rispetto, sono costrette non di rado in giacca e cravatta a fare la fila ogni giorno per un piatto di pasta. Quando si calcola il numero dei poveri in Italia è fuorviante, spiega Gassani. Legare l'analisi alla mera dichiarazione dei redditi, in quanto essa non chiarisce le posizioni debitorie delle persone separate o divorziate. Il centro studi dell'AMI ha anche rilevato che entro 10 anni tali numeri sono destinati a raddoppiare. Un terzo dei separati, barboni peraltro, dorme già in un'auto, mentre la restante parte in piccoli monolocali, dormitori o da amici e parenti. Per questo, aggiunge l'AMI, urge una politica sociale nazionale per garantire i nuovi poveri prodotti dallo sfascio di molte famiglie, con un'inquietante aggiunta finale. Alla base di molti fatti violenti, in cui le vittime sono familiari, vi è anche la disperazione di chi ha perso tutto e non ha vie d'uscita. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Raffaello Masci, I padri separati uniti dalla povertà, dalla Stampa del 14 ottobre. Letture di Radio 24. Si dice che le società capitalistiche legate al consumismo, più che fornire beni ai cittadini, creino bisogni. Che possibilità hanno i consumatori di difendersi e di tornare a essere cittadini anziché clienti? Sono alcuni dei temi affrontati da Benjamin Barber nel suo libro Consumati, da cittadini a clienti. Per quanto potere possa avere il marketing, molto spesso la manipolazione trova nei consumatori dei soggetti consenzienti. Non è tanto l'efficacia della pubblicità, quanto la fragilità di chi compra a rendere la resistenza così problematica. In assenza di desideri reali e veri bisogni, spesso i consumatori sembrano invitare il produttore di beni e servizi a dire loro ciò di cui hanno bisogno. Lo slogan cinico dietro al quale si nascondono gli esperti di marketing più onesti quando vengono accusati di essere grossolani, dannosi e falsi recita: «Non biasimateci, stiamo solo dando alla gente ciò che vuole». Tuttavia, quando gli scettici replicano «Siete voi però a dire alla gente quello che vuole», la risposta ingenua, ma che certamente contiene un seme di verità, è «Sì, d'accordo,

Per smaltire tutta questa corrispondenza digitale ci vogliono almeno 13 ore ogni settimana, cioè un'ora per circa 7 email. Uno spreco di tempo che si può combattere con il metodo tre frasi, che ridurrebbe a sole 2 ore alla settimana il tempo per leggere e scrivere tutto. Per fare propaganda, ogni email, three sentences, ha in calce una postilla. Vuoi sapere perché sono stato così breve? Con un link che rimanda al sito e diffonde il messaggio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ferdinando Cotugno «C'è posta breve per te» da Vanity Fair del 6 ottobre.